sono vicino alla femmina, non v'è caso, non posso più star. Non v'è caso, non posso più star. Non v'è caso, non v'è caso, non v'è caso, non posso più star. Sento un fuoco, una spagna, un furore, sì, che pian piano, pian piano, crescendo di al cuore, mi fa tutto di dentro ballar, che mi fa tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, mi fa tutto di dentro, di dentro, di dentro ballar. Sento un fuoco, una spagna che pian piano crescendo mi al cuore. Quando sono vicino alla femmina, non v'è caso, non posso più star. Non v'è caso, non v'è caso, non v'è caso, non posso più star. Sento un fuoco, una spagna, un furore. Sento un fuoco, una spagna, un furore, che pian piano crescendo mi al cuore, mi fa tutto di dentro vampar. Quando sono vicino a una femmina, non v'è caso, non posso più star. No, no, non posso più star. No, no, non posso più star. Non posso più star, non posso più star, non posso.